GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Pur tra mille voci e pochi affari veri, come il passaggio di Palladino dalla Juventus al Genoa in comproprietà, il mercato del calcio appassiona. Il fronte più caldo è quello del Milan, dove l'atteso attaccante tarda ad arrivare. Pier Silvio Berlusconi ribadisce che il tempo delle follie è finito e i tifosi si mobilitano. Sentiamo come. Per il bene di tutti, ma specialmente del Milan, caro presidente, vendi la società e restituiscici l'orgoglio di essere milanisti. Con queste parole si conclude la petizione online lanciata da alcuni tifosi rossoneri. Il motivo è spiegato chiaramente. I supporter del diavolo sono delusi dalle ultime campagne acquisti del club. Stanchi di aspettare un colpo di mercato che non arriva, si sono spinti a chiedere le dimissioni del loro presidente. Una mossa forse un po' esagerata, sicuramente spinta dal sogno di vedere almeno quest'anno Adebayor o Ronaldinho in casacca rossonera. Ma le attese rischiano di essere deluse anche stavolta. Prendersela con Berlusconi è bizzarro, ha affermato Gagliani. Il vero problema sono i prezzi dei giocatori, troppo alti, e le disponibilità economiche che non permettono colpi da 45 milioni. Una situazione di crisi in cui versano le squadre italiane. Non solo il Milan, ha precisato il braccio destro di Berlusconi. Ma intanto, sulla sponda nero-azzurra, dopo lo scudetto, stanno per arrivare grandi giocatori e le firme rossonere crescono minuto per minuto. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Raimondo Menech resterà, un po' a sorpresa per la verità, sulla panchina della nazionale francese. A darne notizia è stato il presidente della Federcalcio Transalpina, Jean-Pierre Escalette. Domenech potrà dunque portare a compimento il suo mandato, che prevedeva la scadenza naturale dopo i mondiali del 2010 in Sudafrica. Rimaniamo all'estero. Per la prima volta nella storia della competizione, una squadra ecuadoriana ha vinto la Copa Libertadores, l'equivalente sudamericano della Champions League. Ad aggiudicarsi il torneo, la Liga di Quito, che ha battuto in finale i brasiliani della Fluminense. Un successo è arrivato ai rigori con assoluto protagonista il portiere José Francisco Ceballos, che ne ha parati 3 su 4. I 90 minuti regolamentari della finale di ritorno, giocata al Maracanã di Rio de Janeiro, si erano conclusi 3-1 per i padroni di casa, sconfitti 4-2 all'andata. Lasciamo il calcio, cambiamo argomento. Il weekend di Silverstone incomincia oggi con la prima giornata di prove, ma è stato aperto da un addio, quello di David Coulthard, che si ritirerà a fine stagione. Lo ha annunciato lo stesso corridore britannico, 37 anni, che in questa stagione è alla guida di una Red Bull. Rimarrò attivamente coinvolto nello sport come consulente della Red Bull, ha detto Coulthard, con particolare attenzione nella fase dei test e dello sviluppo della monoposto. Oscar Pistorius invece ha l'orgoglio del campione vero. Il sudafricano ha dichiarato che non accetterà favori per i giochi di Pechino se, qualora non riuscisse a qualificarsi per la gara dei 400 metri tra i normodotati, dovesse essergli proposta una wild card. Non credo che l'accetterei. Se devo partecipare ai giochi di Pechino devo farlo perché mi sono qualificato, ha detto Pistorius, che poi è tornato sulla gara della notturna di Milano. Sono molto deluso del tempo fatto segnare perché le prove erano andate bene. Spero possa andare meglio a Roma, dice Pistorius. Rimaniamo in tema olimpico perché il comitato organizzatore dei giochi ha ricevuto ieri, con una cerimonia simbolica in piazza Tiananmen, le 3.000 medaglie da assegnare agli atleti che saliranno sul podio alle Olimpiadi. Per la prima volta nella storia il disegno delle medaglie è stato scelto tramite un concorso pubblico. Un'ultima notizia riguarda il basket americano, con i Sonics, storica franchigia di Seattle, che fa trasloco. I proprietari del club e la città di Seattle hanno infatti raggiunto un accordo per il trasferimento della squadra ad Oklahoma City. L'annuncio chiude un contenzioso tra i nuovi proprietari della franchigia e le autorità della città dello stato di Washington, che ospita la squadra da oltre 30 anni. Questa era l'ultima notizia di GR Sport di oggi. Di nuovo buona giornata.